Comunque io stai tranquillo, io auto non conosco da 14 anni, no, da 11 anni, perciò se lui vuole parlare con te, parlare, però quando c'è appuntamento con te, io non voglio né, io ti ho voluto conoscere, sì, va bene. Per me, capito, io ce l'ho già un amico e mi basta e mi avanza, capito, non devo cagare a casa nessuno, capito. Così oggi siete felici e contenti di non averti fatto parlare per niente, no? Rivettetevi così, rivettete. Che domani già mi rivetto io se in questura, non ti lo fa.